Ad alta voce. Paola Pitagora legge Il diavolo in corpo di Raymond Radiguet. Traduzione di Giampiero Bona. Stavo dentro il letto. Marta mi raggiunse. Le chiesi di spegnere la luce, giacché anche nelle sue braccia diffidavo della mia timidezza. Il buio mi avrebbe dato coraggio. Marta mi rispose dolcemente: «No, ti voglio vedere quando ti addormenti». A quel parlare così grazioso provai un certo imbarazzo. Vedevo la toccante dolcezza di quella donna che rischiava tutto per diventare la mia amante, e non potendo immaginare la mia morbosa timidezza, accettava che io mi addormentassi accanto a lei. Da 4 mesi dichiaravo di amarla e non le davo quella dimostrazione di cui gli uomini sono tanto prodighi e che spesso viene presa da loro per amore. Spensi la luce a viva forza. Piombai nel turbamento di poco fa, prima di entrare da Marta. Come una tesa davanti alla porta, quella davanti all'amore non poteva certo essere lunga. Del resto, la mia immaginazione confidava in tali voluttà che non riusciva più a concepirle. Per la prima volta, inoltre, temevo di rassomigliare al marito e di lasciare a Marta un brutto ricordo dei nostri primi momenti d'amore. Fine fu più felice di me, ma l'attimo in cui ci sciogliemmo i suoi mirabili occhi valevano bene il mio disagio. Il suo viso si era trasfigurato. Mi stupii perfino di non poter toccare l'aureola che davvero circondava il suo volto come nei quadri religiosi. Sollevato dai miei timori, me ne venivano altri. Rendendo compresa la potenza dei gesti che fino a quel momento la mia timidezza non aveva osato compiere, tremavo all'idea che Marta appartenesse a suo marito più di quanto non volesse ammettere. Come mi è impossibile gustare quello che assaggio per la prima volta, così dovevo conoscere i godimenti dell'amore ogni giorno di più. Nell'attesa, il falso piacere mi arrecava un vero dolore da adulto. La gelosia. Ce l'avevo con Marta, perché dal suo viso riconoscente capivo tutto il valore dei legami carnali. Maledicevo l'uomo che prima di me aveva risvegliato il suo corpo. Riflettevo sulla mia stupidità di aver visto in Marta una vergine. In altri tempi, augurare la morte di suo marito sarebbe stata un'illusione infantile, ma questo desiderio diventava quasi criminale, come se l'avessi ucciso. Dovevo alla guerra la mia felicità nascente. Ne aspettavo l'apoteosi. Speravo che essa servisse il mio odio, come uno sconosciuto esegue un delitto invece nostra. Ora si piange insieme. È colpa della felicità. Marta mi rimprovera di non aver impedito il suo matrimonio. Ma allora sarei in questo letto che ho scelto io? Lei starebbe dai suoi. Non potremmo vederci. Lei non sarebbe mai stata di Jacques, ma neppure mia. Senza di lui, non avendo paragoni, forse continuerebbe a rimpiangere sperando di meglio. Non odio Jacques. Odio la certezza di dover tutto a quest'uomo che inganniamo. Ma amo troppo Marta per ritenere colpevole la nostra felicità. Insieme piangiamo di essere soltanto bambini con poche cose a disposizione. Portare via Marta. Poiché non appartiene ad altri che a me, vorrebbe dire portarmela via dal momento che ci divideranno. Già osserviamo che la fine della guerra sarà la fine del nostro amore, lo sappiamo. Marta ha un bel giurarmi che pianterà tutto, che mi seguirà. Io non ho un'indole incline alla rivolta e al posto di Marta non mi immagino una simile folle rottura. Marta mi spiega perché si sentiva troppo vecchia. Fra 15 anni la vita per me non farà che ricominciare. Mi ameranno donne della stessa sua età. Non potrò che soffrire, ella aggiunge. Se mi abbandoni ne morirò. Se rimani, lo farai per debolezza e io soffrirò nel vederti sacrificare la tua felicità. Malgrado il mio sdegno, cercavo come se stessi di non mostrarmi abbastanza convinto del contrario. Ma Marta non chiedeva che questo, e le mie ragioni peggiori le sembravano buone. Rispondeva, sì, a questo non ho pensato, so bene che non menti. Davanti ai timori di Marta, sentivo venir meno la fiducia. Allora le mie consolazioni erano fiacche. Avevo l'aria di disingannarla solo per gentilezza. Le dicevo, ma no, sei pazza. Ahimè, ero troppo sensibile alla giovinezza per non meditare sul futuro distacco da Marta il giorno in cui si sarebbe sciupata la sua giovinezza e sarebbe sbocciata la mia. Nonostante che il mio amore mi sembrasse aver raggiunto la sua forma definitiva, era nella fase d'abbozzo, si attenuava al minimo ostacolo. Di conseguenza, le follie che fecero quella notte le nostre anime ci affaticarono assai più di quelle della carne. Le une parevano il riposo delle altre, in verità ci sfinivano. Più numerosi i galli cantavano, avevano cantato tutta la notte. Mi resi conto di questa finzione poetica. I galli cantano a levar del sole. Non era straordinario. La mia età non conosceva l'insonnia. Eppure lo notò anche Marta, tanto meravigliata che non poteva essere che la prima volta. Ella non poté capire la forza con cui la stringevo a me, giacché il suo stupore era per me la prova che non aveva ancora passato una notte in bianco con Jacques. Le mie apprensioni mi facevano vedere il nostro amore come un amore eccezionale. Crediamo di essere i primi ad avvertire certi turbamenti, ignorando che l'amore è come la poesia e che tutti gli amanti, anche i più mediocri, pensano di essere innovatori. Dicevo a Marta, senza crederci d'altronde, ma perché pensassi che io condividevo le sue inquietudini? Mi abbandonerai, ti piaceranno altri uomini. Lei ribadiva di essere sicura di sé. Da parte mia, a poco io mi persuadevo che sarei rimasto suo, anche quando sarebbe stata meno giovane, giacché la mia indolenza finiva per sottoporre la nostra felicità eterna alla sua energia. I'm on fire on the playground. Il sonno ci aveva sorpreso nella nostra nudità. Al mio risveglio, vedendo la scoperta, temevo che avesse freddo. Palpai il suo corpo. Bruciava. Osservarla dormire mi suscitava una voluttà senza pari. Dopo una decina di minuti, questa voluttà mi sembrò insopportabile. Baciai Marta sulla spalla. Non si svegliò. Un secondo bacio, meno casto, fece l'effetto brusco di una sveglia. Sussultò. Baci come uno che si ama e si ritrova nel proprio letto dopo averlo sognato morto. Lei invece aveva creduto di sognare la verità e mi ritrovava al risveglio. Erano già le 11. Stavamo prendendo la nostra cioccolata quando udimmo il campanello. Pensavo fosse Jacques, purché sia armato. Io che avevo così paura della morte, non tremavo. Al contrario, avrei accettato fosse Jacques a condizione che ci ammazzasse. Ogni altra soluzione mi sembrava ridicola. Meditare tranquillamente sulla nostra morte importa solamente se siamo soli a meditare. La morte in due non è più la morte, anche per gli increduli. La cosa triste non è lasciare la vita, bensì lasciare ciò che le dà un senso. Allorché un amore è la nostra vita, quale differenza c'è tra vivere insieme o morire insieme? Non ebbi il tempo di credermi un eroe, perché misuravo il mio egoismo al pensiero che Jacques forse non avrebbe ucciso che Marta o me. Sapevo inoltre quale dei due drammi fosse il peggiore? Poiché Marta non si muoveva, credetti di essermi sbagliato, che avessero suonato dai padroni di casa, ma il campanello risuonò nuovamente. «Sta zitto! Non muoverti!» ella sussurrò. «Deve essere mia madre!» Avevo completamente dimenticato che sarebbe passata dopo la messa. Ero felice di testimoniare a uno dei suoi sacrifici. «Se un amante, un amico, tardano di qualche minuto a un appuntamento, li vedo morti!» Addossando a sua madre tale forma di angoscia, assaporavo il suo timore, che provava proprio a causa mia. Udimmo il cancello del giardino richiudersi dopo un conciliabolo. Ovviamente la signora Granger domandava al pian terreno se quella mattina avevano visto sua figlia. Marta spiò dietro le persiane e mi disse: «Era proprio lei». Non resistetti alla soddisfazione di vedere anch'io la signora Granger che se ne andava, il suo messale in mano, agitata per l'incomprensibile assenza della figlia. Di nuovo essa si rigirò verso le persiane chiuse. Ora che non mi restava più nulla da desiderare, mi sentivo diventare ingiusto. Mi rendeva ambizioso il fatto che Marta potesse mentire senza scrupoli a sua madre, e la mia malafede la rimproverava di riuscire a mentire. Eppure l'amore, che è l'egoismo in due, sacrifica tutto a se stesso e vive di bugie. Spinto dallo stesso demone, le mossi ancora il rimprovero di avermi nascosto l'arrivo di suo marito. Fino a quel momento avevo smorzato il mio dispotismo, non riconoscendomi il diritto di regnare su Marta. La mia durezza aveva delle pause. Mi lamentavo. «Presto mi troverai orribile. Sono come tuo marito, altrettanto brutale». «Non è brutale», lei diceva. Io di più in più replicavo: «Allora ci inganni entrambi, dimmi che l'ami, sii contenta. Fra 8 giorni potrai tradirmi con lui». Lei si morsicava il labbro, piangeva. «Cosa ho mai fatto per essere così cattivo? Te ne supplico, non rovinare il nostro primo giorno di felicità. Non devi amarmi molto se oggi è il tuo primo giorno di felicità». Simili colpi feriscono colui che li dà. Niente di ciò che dicevo io lo pensavo, tuttavia sentivo il bisogno di dirlo. Non riuscivo a spiegare a Marta che il mio amore cresceva. Forse entravo nell'età ingrata, e questo feroce punzecchiarsi era lo stesso amore che si trasformava in passione. Supplicavo Marta di dimenticare le mie provocazioni. I feel my body moving. Time's no matter. I'm on fire on the playground. La governante dei padroni di casa infilò delle lettere sotto la porta. Marta le prese. Ce n'erano due di Jacques. Come risposta ai miei dubbi, disse: «Fanne ciò che ti pare». Mi vergognai. La pregai di leggerle, ma di tenerle per sé. Marta, a causa di una di quelle reazioni che ci inducono alle peggiori bravate, strappò una delle buste. Difficile da strappare, la lettera doveva essere lunga. Il suo gesto si mutò in una nuova occasione di rimprovero. Detestavo quella bravata, il rimorso che sicuramente avrebbe provato. Malgrado tutto, feci uno sforzo e, non volendo che strappasse la seconda lettera, dopo una simile scena, dissi a me stesso che Marta non poteva essere stata che cattiva. Alla mia richiesta, la lesse. Una reazione poteva farle strappare la prima lettera, ma non farle dire, dopo aver scorso la seconda: «Il cielo ci ripaga per non aver strappato la lettera. Jacques mi fa sapere che i permessi sono stati sospesi nella sua zona. Non verrà prima di un mese». Soltanto l'amore, scusa, simili mancanze di gusto. Questo marito incominciava a infastidirmi, più ancora che se fosse stato presente e avessi dovuto starci attento. Una sua lettera subito pesava come uno spettro. Pranzammo tardi. Verso le 5 andammo a passeggiare in riva all'acqua. Marta rimase stupefatta quando da un ciuffo d'erba tirai fuori il mio cestino, sotto lo sguardo della sentinella. La storia del cestino la divertì molto. Il suo lato grottesco mi lasciava ormai indifferente. Camminavamo, senza accorgerci del nostro contegno indecoroso. I nostri corpi, l'uno appiccicato all'altro, le nostre dita si intrecciavano. Quella prima domenica di sole aveva fatto spuntare i gitanti con la paglietta come la pioggia e i funghi. Le persone che conoscevano Marta non osavano salutarla, ma lei, incosciente di tutto, dava loro il buongiorno, senza malizia. Dovettero vederci una bravata. Lei mi interrogava per sapere come ero scappato da casa. Rideva. Poi il suo volto si incupiva. Allora mi ringraziava, stringendomi le dita con tutta la sua forza, di aver corso tanti rischi. A dire il vero, come pacco per il fronte, intravidi per questo cestino un epilogo degno di quelle avventure. Ma questo epilogo mi urtava talmente che lo tenevo per me. Marta voleva seguire la Marna fino alla Varenne. Avremmo cenato in faccia all'isola di Amour. Già che dubitavo spesso del suo amore, talvolta mi domandavo se non era un passatempo per lei, un capriccio, che avrebbe smesso dall'oggi al domani, richiamata ai suoi doveri dalla pace. Pertanto, mi dicevo, ci sono momenti in cui una bocca, degli occhi, non possono mentire. Sicuro. Ma una volta ubriachi, gli uomini meno generosi si arrabbiano se non accettiamo il loro orologio o i loro portafogli. In questo stato d'animo essi sono sinceri come fossero in condizioni normali. I momenti in cui non è possibile mentire sono proprio quelli in cui si mente di più, e soprattutto a se stessi. Credere a una donna nel momento in cui non può mentire è credere alla finta generosità di un avaro. La mia lungimiranza non era che un aspetto più pericoloso della mia ingenuità. Mi giudicavo meno ingenuo, lo ero sotto un altro aspetto, poiché nessuna età scampa all'ingenuità. Quella della vecchiaia non è la minore. Questa pretesa lungimiranza mi rabbuiava tutto, mi faceva dubitare di Marta. Piuttosto dubitavo di me stesso, non stimandomi degno di lei. Avessi anche avuto più di 1000 prove del suo amore, non mi sarei sentito meno infelice. Conoscevo fin troppo il tesoro di ciò che non esprimiamo mai a quelli che amiamo, per paura di sembrare puerili, per non temere in Marta questo pudore straziante, e soffrivo di non poter penetrare nel suo animo. Tornai a casa alle 9:30 della sera. I miei genitori mi interrogarono sulla mia gita. Gli descrissi con entusiasmo la foresta di Senar e le sue felci alte 2 volte me. Parlai anche di Brunois, grazioso paese dove avevamo pranzato. Tutto a un tratto mia madre, canzonatoria, mi interruppe. A proposito, René è venuto questo pomeriggio alle 4, assai stupito nel venire a sapere che stava facendo una lunga gita con te. Ero rosso di stizza. Quell'avventura e molte altre mi insegnarono che, malgrado una certa disposizione, non sono affatto tagliato per la menzogna. Mi ci pescano sempre. Mio padre, d'altronde, senza saperlo, era complice del mio primo amore. Piuttosto lo incoraggiava, lietissimo che la mia precocità si affermasse in un modo o nell'altro. Inoltre, ebbe sempre il timore che io cadessi in mano a una donnaccia. Era contento di sapermi amato da una brava ragazza. Doveva inalberarsi solo il giorno in cui ebbe la prova che Marta sperava nel divorzio. Mia madre, lei, non vedeva con altrettanto buon occhio il nostro legame, era gelosa. Guardava Marta con occhi di rivale. Trovava Marta antipatica, senza rendersi conto che qualsiasi donna lo sarebbe stata per lei a causa del mio amore. Del resto si preoccupava, più di mio padre, del cosa dirà la gente. Si stupiva che Marta potesse compromettersi con uno sbarbatello della mia età. Poi lei era stata allevata a F. In tutte quelle cittadine suburbane, nel momento in cui si distanziano dalla periferia operaia, infieriscono le stesse passioni, la medesima sete di pettegolezzi che in provincia. Ma in più, la vicinanza di Parigi rende i pettegolezzi che sono posizioni più maliziose. Ciascuno deve stare al suo posto. È così che per il fatto di avere un amante, il cui marito faceva il soldato, vidi a poco, sotto l'intimazione dei loro genitori, diradarsi i miei compagni. Sparirono in ordine gerarchico, dal figlio del notaio sino a quello del giardiniere. Mia madre era colpita da questi provvedimenti che a me sembravano un omaggio. Mi vedeva perduto a causa di una pazza. Certo rimproverava mio padre di avermela fatta conoscere e di chiudere un occhio. Tuttavia, ritenendo che toccasse a mio padre di agire, e poiché mio padre taceva, lei se ne stava in silenzio. You're the piece of gold that flashes on my soul. Extra time on the ground. You're my playground. Paola Pitagora ha letto Il diavolo in corpo di Raymond Radiguet, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio.